30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Sono circa 7,5 miliardi di euro versati nel 2008. Nell'insieme sono 2.727.254 i lavoratori stranieri assicurati, pare a oltre un ottavo di tutti gli iscritti all'INPS. Questo è il nuovo scatto sul cosiddetto pianeta immigrazione dal quarto rapporto sui lavoratori di origine immigrata negli archivi dell'INPS, curato dai redattori del dossier Caritas Migranti, si è presentato a Roma qualche giorno fa. I lavoratori immigrati assicurati sono così ripartiti: dipendenti da aziende i 2/3, domestici il 17%, operai agricoli quasi il 10%, gli autonomi altrettanto. Insomma, ogni 10 lavoratori immigrati, 9 sono impiegati nel lavoro dipendente, uno solo svolge attività autonoma. Buonasera, buonasera da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento di 30 minuti in cronaca. Non è la prima volta che parliamo di migrazione suffragata, raccontata attraverso i dati. Continuiamo a farlo perché gli scatti sono continui e rappresentano una società che cambia. Certo, i dati ci raccontano solo una parte di questo percorso, a noi invece piacciono le storie, piacciono anche i testimoni oculari di questo racconto, e per questo stasera parliamo, abbiamo un ospite, un amico, Davide De Michele, documentarista, ha realizzato un lavoro di cui parliamo tra un momento. Buonasera Davide, innanzitutto. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Ecco, il filo conduttore della serata è il tema del tuo ultimo lavoro, si chiama Radici ed è, direi esplicitamente, una ricerca di quello che c'è dietro un dato come quello che ho appena letto. Allora, che viaggio è? Esattamente, sono 4 viaggi per la precisione, che si concretizzano in 4 puntate che vanno in onda su Rai 3. Sono 4 puntate da un'ora che vanno alle radici degli immigrati che vivono in Italia. Noi abbiamo 4 storie: quella di Maguette, un senegalese, quella di Rosa, boliviana, quella di Nela, bosniaca, e infine quella di Mohamed, marocchino. Sono 4 persone che ci portano a conoscere il loro paese, la loro cultura, le loro radici. Ecco, allora diciamolo subito, Maguette è in studio con noi questa sera, grazie di essere con noi, benvenuto. Grazie anche a voi. Maguette viene da Lugà. Allora Davide, perché questa scelta? Voglio dire, da una parte è assolutamente ragionevole andare a cercare di conoscere chi di fatto ha contribuito a trasformare il nostro paese, però so che non è sempre facile fare questo tipo di lavoro. Non è sempre facile, ma secondo me è fondamentale proprio perché l'Italia ormai negli ultimi anni è diventato un paese di immigrazione, dopo essere stato per vari anni un paese di emigrazione. È un paese che ha, quindi oggi abbiamo all'incirca il 7% della popolazione che vive in Italia, che viene dall'estero, e quindi è giusto cominciare a conoscere queste persone. Noi spesso le incrociamo per la strada, ma non sappiamo nulla di quello che, del loro background, di quello che c'è dietro a queste persone di cui non conosciamo storia, cultura. L'idea di Radici è proprio andare a casa loro per conoscere la loro cultura, però partendo dalla curiosità, quindi dal fascino di andare a scoprire paesi come quelli che citavo e poi di per sé tutto il mondo, ma partiamo da questi, cioè il Marocco, il Senegal, la Bosnia e la Bolivia. Marocco, Senegal, Bosnia, Bolivia, quindi uno sguardo anche su continenti. Marocco, stiamo parlando della terza o la seconda, delle settimane comunità per appunto numero di presenze di stranieri in Italia. Il Senegal è la prima comunità dell'Africa subsahariana nel nostro paese. Insomma, come hai fatto queste scelte innanzitutto? Perché le comunità sono decine. Sì, c'è da perdersi. Sono state scelte un po' casuali perché appunto i paesi sono tanti e alla fine non abbiamo girato nessuno, da qualcuno bisognava partire. E poi certo c'è stato anche il tentativo di andare su quei paesi che avevano una presenza più significativa in Italia. Però bisogna dire che ci sono anche casi, ad esempio la Bolivia non ha una presenza così numerosa, all'incirca in Italia i boliviani sono 20-25 mila. Però c'era un caso particolare di cui Rosa, la ragazza con cui siamo andati in Bolivia, è rappresentativa, cioè che la comunità boliviana in Italia è concentrata soprattutto nella città di Bergamo. Addirittura a Bergamo vivono 15.000 boliviani dei 110.000 abitanti di Bergamo, cioè oltre il 10% dei cittadini di Bergamo sono boliviani. E questa è una cosa curiosa. Ecco, le concentrazioni. Allora, chiedo a Maguette, tu dove abiti ora? Adesso abita a Torino. A Torino, ecco, sì. Come mai si arriva a Torino e non altrove quando si arriva dal Senegal? Perché sono arrivato a Torino nel 2006 con gemellaggio Lugà e Torino. Quindi mi sono arrivato qua, poi ho trovato lavoro a Chieri, mi sono fermato. Ecco, Lugano e Torino sono città gemelle. Quando ho avuto il piacere di andare a Lugano, ho visto questa cosa. Noi guardiamo sempre, no, nelle indicazioni stradali, gemellaggi di solito sono città tedesche con svizzeri, francesi, eccetera, eccetera. Lugano invece è Torino. Questo è una storia di migrazione. Prima di voi sono arrivati, direi, a migliaia. Sì. Chissà chi è il primo di Luga a Torino, ma a un certo punto è cominciata questa abitudine, per cui per te è stato quasi naturale come scelta? Sì, per me sì, perché era una scelta che avevo pensato. Poi quando sono arrivato c'erano già i miei cugini che vivono qua a Torino, quindi mi sono trovato subito la famiglia anche, quindi mi sono fermato. Insomma, dalla calda Luga alla... tiepida? Torino, posso dirlo? Sono di Torino anch'io. Esatto, quindi. La nebbia ormai sta tornando. No, la cosa interessante dell'immigrazione, in molti casi, quello di Maguette, quello della Bolivia di cui si parlava prima, a me questa idea è venuta nel lontano 97 perché avevo fatto un viaggio nelle Filippine andando proprio a vedere cos'era successo nel villaggio natale di una filippina che allora era ed è ancora oggi capa della comunità dei filippini presenti a Torino. Una cosa interessante, dicevo, è che c'è un meccanismo, diciamo, di trascinamento familiare, parentale, amicale, forte, che fa sì che le comunità degli stranieri si vadano a insediare molto spesso proprio in zone vicine del nostro paese, per cui hai la gente di Lugà che viene a Torino, hai i boliviani che vengono a Bergamo, ai filippini che si concentrano fra Torino e Roma, eccetera, eccetera. Insomma, l'effetto trascinamento è anche l'effetto del cambiamento, perché poi c'è la trasformazione di ritorno. Oggi, e citiamo sempre Lugà che è un ottimo esempio, i segni del legame di fatto costruito con l'Italia sono fortissimi. Siamo stati entrambi in quella città, quindi possiamo ricordare entrambi quanto vengano indicate le case des Italiens. La casa di un italiano non vuol dire che ci abita un italiano, vuol dire che ci abita qualcuno, come da noi si faceva nei villaggi, che allora immagino si dicesse la casa dell'americano, sì, quello che è andato all'estero. Ecco, questi sono rapporti solidi che stanno trasformando i luoghi di partenza. Sono rapporti solidi, siamo andati a vedere anche il terreno dove Maguette vuole costruirsi una casa, tanto per fare un esempio a caso, ma abbiamo incontrato una donna a Saint-Louis, la ex capitale del Senegal, Madame Camara, figlia di padre senegalese e madre francese, che è vissuta per anni all'estero, e lei ci ha raccontato, lei vive in una di queste case sull'ex porto di Saint-Louis, affascinante, una casa dove venivano immagazzinati miglio, sorgo, chissà cos'altro che veniva commerciato verso l'estero, e lei ci raccontava: io ho deciso di tornare perché gli emigranti devono tornare e portare nel loro paese le competenze che hanno appreso fuori. E lo diceva anche a Maguette, che se non ho capito male ci sta facendo un pensiero. Sì, perché questo significa una cosa, che se tu vai in Europa non ritorno in tuo paese a portare qualcosa, per loro tu sei venuto per dormire. Quindi per dormire, quindi loro ti pensano, dicono, dai, ritorno a dormire al tuo paese. Quindi quando ho visto lei, quello che ha fatto, mi hai dato molto ancora il consiglio di portare ancora altre cose al mio paese. Quindi anche io sto costruendo, ho comprato un terreno per costruirlo, per poter portare anche i turisti quando vogliono venire. Ecco, la grande differenza di questa storia della migrazione rispetto a quella che abbiamo citato, credo che sia giusto farlo, della grande migrazione italiana, forse potrebbe essere sintetizzata in una parola, che è internet. Nel senso che queste distanze sono state completamente saltate, le relazioni non vengono interrotte, la comunicazione continua. Abbiamo visto entrambi come sia importante l'utilizzo di Skype tra le comunità migranti, per cui normalmente si comunica e non si lascia mai definitivamente la propria casa. E questo credo sia un fatto di grande trasformazione. 30 minuti in cronaca. Insomma, un viaggio alle radici delle migrazioni, questo è quello di cui parliamo questa sera. Il nostro ospite è Davide De Michelis, che vi ricordo è giornalista, documentarista e viaggiatore che racconta attraverso la televisione, la radio, i giornali, i luoghi che rappresentano e costituiscono il cambiamento nella nostra società. Con noi anche Maged Zheng, che appunto da Lugace ha introdotto già qualche elemento di questo grande fenomeno. Davide, vorrei però parlare un momento di Bosnia. Ricordiamo, 4 i paesi al centro di questo progetto, uno solo europeo. Ma che paese? Bosnia-Erzegovina. Esatto, la Bosnia-Erzegovina, sappiamo tutti, cioè è conosciuta soprattutto per un motivo, ahimè, che è la guerra del 92-94 che ha sconvolto quella regione, no? E che si è trascinata poi con seguiti in altri paesi della zona. Abbiamo scelto la Bosnia perché, appunto, dopo la guerra, praticamente, come sempre accade col fenomeno dei media che hanno ci inondano di informazioni in certi momenti e poi ci fanno scomparire fette di mondo per sempre, spesso. Ecco, abbiamo pensato di tornare in un paese dove, di cui appunto non si parla più, per andare a vedere cosa succede, cosa è cambiato. E devo dire, è stato molto interessante. Io ad esempio ho scoperto, non lo sapevo, che la Bosnia-Erzegovina è un paese a paesaggi stupendi. Era la prima volta che ci andavo. Purtroppo i segni della guerra sono ancora evidenti. Ecco, quale differenze fondamentali hai riscontrato in questi 4 paesi? Mi spiego, da una parte c'è una grande migrazione africana dal Senegal, con ormai una sua solidità, una sua storia, dei meccanismi anche consolidati. Dall'altra una migrazione del dolore, della violenza, la Bosnia-Erzegovina. Già il nome, non è un caso che noi in qualche modo ci ricordiamo a vicenda di dover completare questo nome, perché in quel nome doppio c'è già una parte della storia della sua lacerazione. Esatto, infatti Nela, la protagonista di quella puntata, ad esempio, lei con la famiglia ha lasciato il paese casualmente un anno prima della guerra, perché il papà per lavoro è stato trasferito a Gorizia in Italia. Ma molti dei bosniaci emigrati in Italia, come in altri paesi, hanno lasciato il paese proprio in quel periodo e adesso stanno tentando di farli tornare da anni ormai. Però non è facile. Siamo stati anche a Srebrenica, dove c'è stato questo massacro di musulmani. E lì è difficile tornare perché la memoria è pesante. Proprio in questo mese di luglio di ormai esatto, 18 anni fa. Sì. Ecco, da una parte abbiamo una comunità appunto senegalese che di fatto sembra costruire una vita su un doppio binario. Non so se Maged è d'accordo. Si è migranti, ma si continua a frequentare intensamente la propria città. Però non si pensa di abbandonare definitivamente Torino o l'Italia, o è un'idea mia? Adesso non ho ancora pensato su questa cosa perché, come ho detto, solita cosa che abbiamo trovato bene a Torino, soprattutto io, perché dal mio punto di lavoro ho trovato bene Torino. E non è che penso di lasciare così Torino, me la vado via, l'Italia ad esempio, però sto pensando di altri progetti, se posso anche di fare Torino. E infatti è anche, se ho ben capito, e vedo che sono sempre più diffusi questo tipo di scelte, cioè l'identità non è più strappata come era inevitabilmente nei viaggi dell'inizio del secolo scorso, in cui partivi addio, cioè una lettera all'anno se ti andava bene, se eri in grado di scriverla. Ecco, in altri posti, Davide, mi chiedo, in Bosnia-Erzegovina, è possibile questo? Perché poi a casa invece ci sono delle lacerazioni molto più gravi. Guarda, ti rispondo con una battuta che rubo a Nela, la protagonista della Bosnia. Alla fine dei 4 documentari ho fatto sempre un'intervista a loro chiedendo se pensano di tornare, se hanno mai pensato di tornare, eccetera, eccetera. E Nela ha risposto, ma tu pensi alla domanda, pensi di tornare? Ha detto, ma forse no. E le tue radici? E lei dice, ma le mie radici sono chiaramente bosniache, ma viaggiano con me, per cui io posso andare in qualsiasi angolo di mondo, ma la mia identità è questa. Radici che viaggiano giustamente con le persone, che cambiano, crescono e si alimentano anche di, appunto, di esperienze, di contatti diversi. Parliamo anche dell'altra parte del tuo lavoro, perché so che Radici è vero che è sulla migrazione, ma anche sugli italiani. Sì, cioè c'è un viaggio che è, diciamo, l'elemento portante di ogni puntata, perché ci fa vedere il paese e poi è anche il modo per catturare l'attenzione del pubblico, l'esotico, la curiosità, la scoperta, perché è una via di mezzo fra un documentario di viaggio e un documentario sociale, ma comunque ha questa dimensione forte di curiosità. Ma questo viaggio è anche il pretesto narrativo per vedere alcuni brevi flash, ma che ci fanno capire come questi immigrati vivono nel nostro paese. Quindi vediamo come Maguette lavora, facendo corsi di tamburi, danza, cioè di quello che lui ha nel sangue, che molti africani e soprattutto molti senegalesi hanno nel sangue. Vediamo dei flash di come Nela, la bosniaca che fa l'attrice, vive, lavora in teatro, dove vive, che amici ha, che persone frequenta, perché una delle domande che ci poniamo tutti è quanto queste persone si integrano nel nostro paese, quanto si mischiano con noi o stanno, diciamo, legati solo alla loro comunità. E allora in brevi passaggi, spesso legati anche a episodi che viviamo là, abbiamo questi flashback in Italia. Per dirne uno, in Senegal abbiamo visto alla televisione un match, una finale di lotta che lì è molto seguita, dove c'era un pezzettino della famiglia di Maguette, cioè una cinquantina di persone. E da lì siamo saltati in Italia e abbiamo visto Maguette e Mirella, sua moglie. Maguette è sposato con una ragazza italiana, Maguette e sua moglie davanti alla TV, come si vede da noi. Cioè anche da noi una volta la televisione era seguita da 50-100 persone al bar. Oggi la televisione ce l'abbiamo tutti e ce la guardiamo da soli o al massimo in 2 o 3 a casa. Sappiamo benissimo che l'immigrazione è, ed è stata, direi, io spero di poter usare il passato, anche un tema, come dire, strumentalmente utilizzato per a volte sottintendere conflitti che poi personalmente tante volte non ho ritrovato nella realtà. E la prova di questo è l'attività della cooperazione. Spesso ho sentito, ho letto anche articoli, come giornalista ne sono parte di questa questione, quindi di conflitti, di difficoltà locali, e poi magari nelle stesse città coinvolte vedevo gruppi di cooperazione che fanno delle attività formidabili unendosi ad associazioni migranti, eccetera. Sei d'accordo? Hai registrato questo fenomeno? Sì, assolutamente. Anzi, ti cito un episodio. Ci sono alcune organizzazioni di immigrati. Io conosco il caso di Torino, che è seguito e appoggiato dal CISV, da un'organizzazione governativa torinese. Organizzazioni di immigrati che fanno un'attività detta di cooperazione decentrata. Cioè, anziché avere un rapporto uno a uno, cioè l'immigrato che aiuta la sua famiglia o i suoi amici, c'è il gruppo di immigrati che aiuta una realtà, quindi magari un gruppo di famiglie, un villaggio, situazioni strategiche nel loro paese. E questo è un modo per far sì che le rimesse, che sono fondamentali, ad esempio in Senegal mi dicevano che qualcosa come 12 miliardi di dollari all'anno arrivano di rimesse, quindi una fetta significativa del prodotto interno lordo nazionale, no? Però appunto queste rimesse, che sono fondamentali per mantenere le famiglie, diventano non solo legate a questo rapporto singolare, singolo, uno a uno, ma da gruppo a gruppo, da gruppo di immigrati a situazioni che spingono lo sviluppo del paese. Insomma, qui davvero si parla di radici che si fanno sempre più solide, di radici che, come le radici nel mondo naturale, alimentano delle trasformazioni, alimentano delle persone, insomma. Le rimesse degli immigranti sono un elemento centrale, lo sono state nella storia italiana per la trasformazione sociale, lo sono in quelle dell'Africa. La scorsa settimana l'avrete forse sentito, abbiamo parlato proprio qui dell'effetto della crisi libica sulla sparizione per circa 1 milione di persone delle rimesse della migrazione. Un tema di grande importanza. Ma, e siamo in conclusione, ovviamente ringraziando Davide De Michelis e Maguette Genk qui con noi. Grazie, Davide, solo per ricordare, perché c'è tutta una parte da guardare, l'appuntamento è venerdì sera alle 23.55 su Rai 3 fino al 1 luglio, cioè ci saranno ancora 2 puntate. E poi ci sarà il web. E poi c'è il web sul sito www.rai3.rai.it, c'è il programma Radici e lì si possono vedere le puntate andate in onda. Ecco, e naturalmente c'è il web anche per noi, ve lo dico sempre, il bello di questa rivoluzione è che tutto quello che uno perde poi lo ritrova, non si perde più nulla. Grazie ai nostri ospiti di essere stati con noi, l'appuntamento con 30 minuti in cronaca come sempre e per la prossima settimana.